L'India. L'India, grande paese in rapida ascesa sull'orizzonte mondiale, deve esercitare un fascino irresistibile sui politici italiani. Nello spazio di 2 settimane gli sono toccate in rapida successione una visita di Formigoni prima e una di Rutelli poi. E mentre del primo ci sono giunte solo un paio di fotografie sullo sfondo del Taj Mahal e qualche generica dichiarazione sui proficui rapporti che il sistema economico di quel paese potrà stabilire con quello lombardo, non senza qualche lecita ricaduta, suppongo, sulla compagnia delle opere, il secondo ha messo, come si dice, i piedi nel piatto. Ha partecipato lunedì scorso alla conferenza internazionale sul centenario della prima campagna non violenta di Gandhi. Ha incontrato l'omonima Sonia e altri dirigenti locali e ha spiegato a tutti che lui con il profeta dell'indipendenza dell'India ha un rapporto tutto speciale. 30 anni fa, quando era solo un giovanotto di belle speranze e la maggior parte dei suoi coetanei era tristemente proclive a cedere ai miti della violenza, e perché si sa che in Italia c'è stata una generazione che ha fatto la politica sulla canna del fucile, lo dice lui, 30 anni fa Rutelli era un pacifista di tutto rispetto. Non poche copie di un foglio volante da lui personalmente redatto sul Satyagraha, che è il metodo non violento gandhiano, le conserva ancora in cantina. Le ha ritrovate per caso proprio in questi giorni, le ha mostrate ai giornalisti prima di imbarcarsi per New Delhi e le ha commentate in loco, trovando che i concetti vi espressi non saranno pietre miliari della filosofia, ma sono interessanti, no? A quei tempi il bravo giovane faceva il dirigente del Partito Radicale, come si può evincere dal soffietto stampato su quel foglio proprio sopra la fotografia del Mahatma, ma di quel peccato giovanile certo non si vergogna. I radicali non erano solo battaglie civili e divorzio, dice, erano Gandhi, non violenza, lotta alla fame nel mondo, erano progressisti. Su che si potrebbe discutere naturalmente, ma è vero che allora a credere al pacifismo di Pannella, anzi al suo antimilitarismo, come diceva, qualcuno c'era. Chiedetelo pure a me alla Came, che ce l'avamo cascati 10 anni prima dell'attuale leader della Margherita. Questo è il punto, però. Mentre noi continuiamo ad arrabattarci come possiamo, il ragazzo nel frattempo è cresciuto e ha fatto carriera. È diventato il vice di un governo che non si può dire propriamente gandhiano, visto che in pochi mesi di attività ha aumentato le spese militari, ha permesso agli Stati Uniti di installare nella pianura padana la più importante base d'Europa e si è mostrato disposto ad autoimmolarsi pur di non rinunciare alla presenza dei nostri ragazzi in armi in svariate parti del mondo. Che non sono novità e sono cose che largamente si sanno e che anzi sapevamo tutti già prima di votarli, ma come minimo fanno pensare che alle reminiscenze giovanili del vicepresidente manchi almeno un passaggio, che so, nel tentativo di saldare in qualche modo lo ieri all'oggi avrebbe potuto dire: sì, da giovane ci credevo, ma adesso naturalmente ho cambiato idea. Oppure, sapete com'è, no? A 20 anni si è tutti utopisti, ma poi bisogna fare i conti con la dura realtà. O avrebbe anche potuto spiegare che, essendo cambiati i tempi, un impegno come quello d'allora, pur mantenendo intatto ogni valore morale, non si può più proporre nel concreto gioco politico. Insomma, avrebbe potuto ricorrere a uno qualsiasi degli artifici retorici che usa chi deve spiegare ed essere passato col tempo da una posizione all'altra. Non c'è niente di male nel cambiare opinione e casacca, è una cosa che in Italia si fa normalmente, non è detto che sia sempre sbagliato, e solo degli zucconi come quelli che da qui vi parlano possono vantarsi di essere abbarbicati da 40 anni allo stesso scoglio ideologico. Lui Rutelli però questi problemi non ne ha. E dato che si sente dalla parte giusta di chi il pacifismo lo ha considerato un valore prima degli altri, come assicura il Corriere del 29 gennaio scorso, può passare direttamente dall'elogio di Gandhi alla polemica con chi dice no al rifinanziamento della missione in Afghanistan. polemica né da qua, ma non è il caso di seguirlo, perché le tesi governative in merito sono note, il loro senso comunque, quello che vi ci siamo, vi dobbiamo restare, chi non è d'accordo si gratti pure, che non è forse una grandissima argomentazione, anche se condita con tutto l'armamentario dell'approccio multilaterale e della necessità di mantenere gli impegni, ma è l'unica di cui gente come Rutelli dispone, per cui tanto vale che la usi. E se il vicepresidente del Consiglio non si sente turbato da nessuna contraddizione, non dico col pacifismo della sua giovinezza, ma con le dichiarazioni gandiane che ha reso 3 minuti prima, vuol dire soltanto che il senso della contraddizione è come il coraggio di Don Abbondio, no? Se uno non ce l'ha, non se lo può dare. D'altronde, non è un problema esclusivamente suo. È caratteristica di tutto il ceto politico di cui Rutelli è espressione una certa, come dire, una certa pragmatica disponibilità a servirsi di tutto quello che fa comodo ai propri fini, senza neanche rendersi conto che a volte per prendere qualcosa bisogna lasciare qualcosa d'altro. Per cui sono al tempo stesso laici e succubi del Papa, liberisti e cultori dell'intervento pubblico in economia, solleciti degli interessi dei ceti più bassi e proni assolutamente alle esigenze dei potenti. Come nel caso, possono andare a un convegno gandhiano per difendere un intervento armato. Naturalmente gli ospiti indiani del nostro eroe, dall'omonima Sonia in giù, non si saranno scandalizzati. Anche loro di Gandhi si ricordano quel tanto che basta per vietare la vendita della birra nel giorno anniversario della sua morte e poco più. Dall'indipendenza in poi l'India ha combattuto 3 guerre, dispone di un esercito attrezzatissimo, completo di armamento nucleare, e se le ossa del Mahatma non si rivoltano nella tomba come le pale di un ventilatore è solo perché per precauzione le hanno cremate. Deve essere stato quel convegno per il centenario del Satyagraha una bella adunata di ipocriti.